Facce di Raffaella Calandra. Milano si riappropria del ruolo di capitale morale del paese, si riappropria in un momento difficilissimo, in un momento nel quale purtroppo la capitale reale non sta dimostrando di avere forse quegli anticorpi morali di cui ha bisogno e che tutti ovviamente ci auguriamo che in tempi brevissimi recuperi. Grazie. La luce carica dell'autunno riflette sulle sponde del Tevere e dà alla città eterna un'aria ancor più languida del solito. Davanti alla rinnovata Fontana di Trevi, i turisti estasiati fotografano e ridono. Roma è sempre Roma, anche quando processa se stessa. Ma al di fuori dei percorsi dei turisti, di un solo tema si parla nei famosi salotti: di Mafia Capitale, del più grande processo dopo quello alla Banda della Magliana sulla criminalità romana, che si è aperto giovedì 5 novembre nell'aula Occorsio della Cittadella Giudiziaria, ma che in rito abbreviato ha già avuto pure le prime 4 condanne. Quali altri scossoni provocherà dopo il terremoto al Campidoglio, culminato con l'uscita del sindaco Ignazio Marino, e quali cambiamenti, se lo farà, lascerà nella quotidianità di Roma, dei suoi circoli, dei suoi palazzi, del suo modo di vivere? E perché poi intorno all'inchiesta Mafia Capitale è progressivamente montata una campagna ostile di chi vuole leggerci solo una storia di cravattari, di bassa corruzione, insomma? Davanti alla statua della Lupa parte allora questa puntata di Storiacce. La prima reazione della società civile di fronte a questo è dire: non esiste la mafia, non esiste un'organizzazione in Italia di questo tipo, esistono bande di pecorai. Questo si diceva a Palermo negli anni 70, questo lo abbiamo risentito dire a Reggio Calabria, questo abbiamo sentito, leggiamo sui giornali che si continua a dire a Lombardia e in altre regioni d'Italia, perché non si vuole ammettere l'entità del pericolo. Se la mafia è un cancro, bisogna adottare delle cure spesso dolorose. Il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, lo disse esplicitamente da subito davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Il meccanismo in atto ora sulle sponde del Tevere è lo stesso già visto in passato a Palermo e a Reggio Calabria. Negare, sminuire, ridurre la portata dell'inchiesta giudiziaria e poi anche attaccarla in ogni modo, nella forma e nella sostanza. Così da una parte si cerca di darle un altro nome rispetto a quello di mafia, di chiamarla storia di cravattari, dall'altra c'è chi protesta e organizza scioperi come gli avvocati per le modalità scelte dal dibattimento. E con queste premesse è partito il più grande processo alla mafia capitolina, il processo in cui Roma, in un certo senso, giudica se stessa e il suo stile di vita, oltre che i suoi anticorpi. Sarà capace la capitale di farlo? Roma, che non è più il porto delle nebbie, Roma che ora scoperta alle connivenze del Campidoglio, le parentopoli varie, indaga e denuncia in modo trasversale e non più con le logiche dei circoli e delle appartenenze? È questa inversione di tendenza rispetto al passato ad aver alimentato forse fin dall'inizio, fin dal 2 dicembre 2014, giorno degli arresti di Massimo Carminati and Company, la campagna di quanti vogliono leggere Mafia Capitale solo come un semplice malcostume? Apripista di questo riduzionismo, in un certo senso, è stato Giuliano Ferrara. Grosso appalto per mezza dozzina di appartamenti a 7 camini, oppure una raccomandazione per l'assunzione di un facchino a Roma 3. Ma delle cose da ridere. Roma da tracciaculi. Sì, è proprio. Tracciaculi, naturalmente Roma è corrotta, questo si sa, diciamo, basta aver fatto un po' di letture classiche, è corrotta da sempre, Roma è corrottissima. E questi sono dei moretti, dei cravattari, ma è piccola corruzione. Da allora però la linea di un singolo opinion maker è diventata la campagna di una serie di intellettuali e la sintesi è una sola: Roma funziona così da sempre, è tutto uno scambio di favori, e in quest'ottica diventano allora quasi reati minori nel sentire collettivo l'appalto dato all'amico, la nomina al conoscente, la forzatura della gara per favorire ora l'uno ora l'altro, i tanti magheggi quotidiani, insomma, anche se orchestrati stavolta dai palazzi del potere vero e soprattutto maneggiando soldi veri e tanti, tanti milioni di euro. Come dire, la città eterna è tale anche per questo. E non saranno certo due PM abituati alla Sicilia e alla Calabria a cambiare il trend. È quello che il procuratore aggiunto Michele Prestipino definisce negazionismo. Nel nord del paese e anche a Roma si guarda a questi fenomeni con uno scopo, che è quello di minimizzare, sminuire il dato fattuale della presenza di queste mafie. Sono tutti cialtroni, banditi, c'è qualche ladrone, tangentari, ma certo di mafia non se ne può parlare, perché la vera mafia è in Sicilia, in Calabria e in Campania. Beh, quello era il negazionismo, questo io lo chiamo il riduzionismo. L'ammissione di quell'evidenza significa ammettere quel famoso patto di convenienza che è la vera forza delle organizzazioni mafiose. In questo clima di attacco, in un certo senso, al processo Mafia Capitale, finisce inevitabilmente anche la protesta degli avvocati, anche se mossa da tutt'altre ragioni. Sono ragioni tecniche, certo, che hanno spinto i penalisti ad annunciare prima 4 giorni di sciopero, poi uno solo, ma anche questo è finito nel calderone di un mood, per dirla con una parola inglese ora molto in voga, di un clima, cioè ostile al dibattimento, che il presidente delle Camere Penali di Roma, Francesco Tagliaferri, smentisce con forza, ritornando alle ragioni di questa forte e per certi versi insolita agitazione. Innanzitutto il primo provvedimento del Presidente del Tribunale, che stabiliva un calendario serratissimo di udienze, cioè 4 udienze a settimana, e soprattutto la presenza di tutti gli imputati detenuti solo attraverso la videoconferenza, abbiamo ritenuto che ci fosse un totale annichilimento del diritto di difesa degli imputati. Ma non dovreste essere anche voi e gli imputati anche per primi contenti del fatto che una volta tanto, invece di metterci tanti anni, forse si riesce più velocemente ad arrivare a conclusione del dibattimento? Questo senza dubbio, però tenga conto che c'è stata tutta un'accelerazione, come dire, anomala, se si tiene conto che questo processo è rimasto fermo per oltre 6 mesi. Perché parla di anomalia? Dal decreto di giudizio immediato alla prima udienza sono trascorsi 6 mesi in cui non è avvenuto nulla. Un calendario si è serrato che inevitabilmente penalizza la possibilità del difensore di difendere adeguatamente il proprio cliente. Ma ritengo che i difensori e gli imputati abbiano tutto l'interesse a risolverlo rapidamente. L'astensione l'abbiamo programmata non tanto per questo aspetto, quanto per l'altro, cioè la videoconferenza. Quello è il problema vero, insomma. Per cui c'è veramente l'impossibilità. 4 giorni di sciopero perché 4 udienze a settimana sono troppe e perché gli imputati detenuti, 18 su 46 a processo, potevano essere collegati solo in videoconferenza e non di persona. Alla fine, dopo proteste accese e polemiche ancora più forti, il presidente della 10ª sezione penale, davanti al quale si celebra il processo Mafia Capitale, ha stabilito che il divieto ad assistere di persona alle udienze varrà solo per Massimo Carminati, che comunque, essendo al carcere duro, avrebbe potuto in ogni caso partecipare solo in video, e per i suoi più stretti collaboratori, diciamo così, secondo l'accusa: Salvatore Buzzi, il RAS delle cooperative, e Riccardo Brugia, presunto altro capo di Mafia Capitale. Gli altri invece potranno essere d'ora in poi nell'aula bunker di Re Bibbia. Le proteste degli avvocati, anche queste, possono essere in qualche modo ricondotte a quanto già visto in passato in altre latitudini ben più meridionali del paese? Ne torneremo a parlare più avanti, perché forse anche questo rientra in quel famoso discorso di anticorpi che ha rimesso le due capitali d'Italia, Milano e Roma, di nuovo l'una contro l'altra, anche sulla legalità. Ci torniamo, dicevamo, ma di sicuro questo processo rappresenta una pietra miliare nell'inizio, come di una nuova fase della storia della città eterna, dove fino ad ora, ad esempio, uno come Massimo Carminati, ex militante nero dei NAR, ex membro della banda della Magliana, passato attraverso i più fitti misteri della storia d'Italia, era sempre rimasto all'ombra di mai intaccate copertura, e per questo uscito sempre indenne, ma solo fino ad ora. E ora che questa realtà sembra crollare davvero, chi quel passato l'ha vissuto e da protagonista sulla strada prevede una difficile stagione di assestamento e di riequilibrio, una stagione simile a quella del 93, dice. Parola di Antonio Mancini, ex Magliana, ora collaboratore di giustizia, uno che Massimo Carminati, ercecato, il capo di Mafia Capitale, lo conosce, ci dice, da quando aveva tutti e due gli occhi buoni. Molto probabilmente sono venuti meno quelle protezioni di cui lui ha sempre goduto. prima di lui quel gruppo di testaccio veniva guidato da De Petis. De Petis si sa che aveva protezione sia a livello politico che all'interno dei tribunali, eccetera. Quando De Petis è stato ammazzato, quelle protezioni sono state prese in mano da Carminati. Se Carminati è stato arrestato soltanto adesso, questo vuol dire che quelle protezioni sono venute meno. Di che tipo di protezioni parla? Politiche, di servizi segreti, la finanza, non c'è più sinistra, destra, oggi è tutta una minestra. È il mondo di mezzo su cui filosofeggia il Guercio, laddove tutti si incontrano all'ombra dello stesso cupolone, proprio come in certi salotti romani, dove la politica si mescola alla televisione, gli affaristi alle veline e tutti finiscono a fare il trenino nelle feste sui terrazzi della Vista Monsafiato. A far l'amore comincia tu. È forse per questo, per questa promiscuità tutta romana, che il processo più importante della storia recente di Roma, quello in cui la capitale mette sotto accusa in un certo senso se stessa, viene attaccato e sminuito? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Storiacce. Oggi noi riteniamo di avere fatto, per così dire, un passo avanti con questa che abbiamo definito mafia capitale, mentre l'espressione mondo di mezzo, come ormai è noto, è usata dallo stesso Carminati. Sempre più sia le mafie tradizionali, a maggior ragione questa mafia capitale, privilegia la corruzione alla violenza. Con i soldi e con gli scambi di favori che Mafia Capitale si è costruita il suo potere sulle strade di Roma, non unica a controllarla, perché se Napoli è troppo grande per una sola mafia, come diceva un vecchio boss, Antonino Calderone, figuriamoci Roma, aggiunge oggi il procuratore Giuseppe Pignatone. Ma sulle macerie della Magliana e utilizzando i crediti che quella banda, un'agenzia del crimine, aveva accumulato in anni di oscure trame, sanguinarie stragi e indicibili accordi, Mafia Capitale è arrivata a trattare alla pari anche con clan come quelli calabresi. In quella rete comandano loro, in questa comandiamo noi, dicono esplicitamente. Uno scambio di favori che permette alla cooperativa di Buzzi di speculare sull'emergenza profughi anche in Calabria e consente alle cosche dei Mancuso e dei Piromalli di entrare, secondo l'accusa, sulle piazze di Roma con gli affari del mercato dell'Esquilino. Ma anche tutto questo a volte è letto a storia di cravattari, a storia di normale corruzione, si dice, come se la corruzione poi fosse qualcosa di fisiologico, di normale, e non piuttosto uno dei mali peggiori, per quanto assai diffuso nel paese. E allora il tema è: non si vuole vedere la gravità delle accuse? Oppure che altro? Accuse che certo devono essere tutte provate nel dibattimento, fino ad allora, per carità, tutti presunti innocenti. O non si sa leggere la gravità di queste contestazioni, perché non esistono precedenti nella città che non a caso era ribattezzata il Porto delle Nebbie fino ad ora? Il punto, ancora una volta, per capire questo processo, ma per capire anche le contestazioni che adesso vengono mosse, sta dentro Roma. Non c'è distinzione tra ambienti, ruoli e colori politici e tutto si mescola in un'unica suburra, a detta di Giancarlo De Cataldo, magistrato capitolino. La suburra era l'antico luogo in cui si consumavano commerci inconfessabili tra patrizi e plebei, il quartiere delle osterie, dei postriboli, delle bettole in cui si ordivano complotti, assassini. Alcuni eredi della banda della Magliana fanno affari e, siccome pecunia non olet, anche questo l'ha insegnato l'antica Roma al mondo, che siano rossi o che siano neri non fa differenza. E un'altra proposta, stecca parave tutti, 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte, invece da pece poco in tanti, c'èmo tanto insieme, questa è un'ottima base, eh? Insomma, Libano, sta base ci serve per far che? Per piacere quello che se vogliamo piacere a tutti. Che se vogliamo piacere a tutti? Roma. Mancini, se lei dovesse definire la banda della Magliana oggi... Mi impadronisco del termine del dottor Sica, un'agenzia del crimine. Un'agenzia che agiva su commissione di altri. Anche quello, sì. Noi eravamo il gatto al quale non bisognava guardare il colore, l'importante è che appai dove, insomma. No. Non importa il colore del gatto, l'importante è acchiappare i topi, disse a storiacce già molto tempo fa Antonio Mancini, ex della banda della Magliana. Perché alla fine a Roma tutto sembra in qualche modo sempre partire da lì, da quell'agenzia del crimine la cui appartenenza a volte è stata anche millantata come una sorta di status criminale da chi invece non aveva nulla in comune con il libanese, il nero e con tutti gli altri che provarono la conquista della capitale tra gli anni 70 e 80. E allora, come oggi, nella Roma criminale, come in quella che si muove alla luce del sole, uno come Salvatore Buzzi, l'uomo che ha trasformato l'accoglienza ai migranti, il problema dei rifiuti e il verde in un autentico business, non può che avere un'unica regola. Io pago tutti, proclama, e non può che augurarsi un anno pieno di profughi, monnezza e piogge, come scriveva in un SMS. A spalancargli le porte è stato l'ex sindaco Gianni Alemanno, indagato. Con Mafia Capitale è cominciata a scricchiolare anche la poltrona di Ignazio Marino, dimessosi alla fine quasi un anno dopo quegli arresti, rivendicando però il tanto lavoro fatto proprio su questo fronte. E di sicuro, al di là di tutte le polemiche politiche successive, con la sua giunta l'atteggiamento dei boss di Mafia Capitale cambiò, a quanto disse il procuratore Giuseppe Pignatone davanti alla commissione parlamentare antimafia. Si rapporta in modo completamente diverso con le due giunte, con la giunta di cui è stato sindaco Alemanno, il quale a sua volta è indagato. In quella giunta noi abbiamo, che coprono cariche amministrative di vertice, tre delle persone che, come noi riteniamo, abbiamo contestato anche il reato di 416 bis, e cioè Testa, Mancini e Panzironi, con l'amministrazione successiva questa presenza di vertice non c'è, però non c'è dubbio che rimane questa presenza estremamente pesante di Buzzi e del mondo delle cooperative che ruota attorno a lui. Carminati dice a Buzzi: mettiti la minigonna e vai a battere con questi, amico mio. In questa situazione, con questo clima, in una capitale che non è stata sciolta per mafia ma che comunque ora si ritrova commissariata, si è aperto il processo Mafia Capitale. Un processo dall'alto valore simbolico per una città che appunto si ritrova a discutere se è capace di reagire alla malattia, per dirla con un linguaggio spesso usato quando si parla di mafie e di infiltrazioni. Roma sa sviluppare gli anticorpi per guarire dalle metastasi delle infiltrazioni, delle logiche mafiosi e della prassi della corruzione? È stato sottovalutato il fenomeno proprio perché ci trovavamo a Roma e proprio perché evidentemente molti ritengono che questi fenomeni in una città come Roma non possano verificarsi. Raffaele Cantone, presidente dell'Authority Anticorruzione, parla di sottovalutazione. È quel riduzionismo di cui abbiamo parlato nella prima parte di Storiacce. Non si nega il problema, ma lo si sminuisce. È qualcosa di ordinario, ma come in tutte le malattie, il primo passo verso la guarigione è la consapevolezza del male. Ed è anche per questo che lo stesso Cantone, dopo le polemiche sulle sue parole su Milano e Roma, sulla capitale morale del nord e sulle difficoltà della capitale effettiva, tracciava una diagnosi a Radio 24. Noi ad oggi abbiamo visto una serie di appalti, abbiamo fatto fatica a farli partire perché in ogni appalto spesso c'erano gli stessi errori ripetuti. Roma non sa far sistema perché a Roma tutti giocano per sé. E su questo scambio di favori, su queste reti allargate che non conoscono distinzioni, tutto si è sempre tenuto fino ad ora. Com'era, per altri versi, nelle logiche criminali già ai tempi della banda della Magliana, e lo conferma chi di quella banda faceva parte prima di diventare collaboratore di giustizia, Antonio Mancini. Dove sono i soldi della mezza Roma che aveva comprato De Pedis? È notorio che De Pedis aveva contatti col Vaticano. Una parte l'ha presa Carminati. Io incontravo insieme ad Abbruciati i servizi segreti. Loro ti fanno un favore, no? Ma non ti chiedono subito qualcosa in cambio. Dopo vengono a bussare, come hanno bussato per Pecorelli, come hanno bussato per le devianze della strage di Bologna. Carminati temeva di essere arrestato, veniva informato da militari sul fatto che c'era l'inchiesta in corso. La prova che lui aveva in mano tutto,